Benvenuti al Business Meeting Herbalife. Questa presentazione è riservata a coloro che ricercano un'opportunità di business che consenta di crearsi una rendita. Normalmente quando si sente parlare di Herbalife ci vengono in mente quelle persone che abbiamo sicuramente incontrato almeno una volta per strada con una spilla con una scritta "vuoi perdere peso? Chiedimi come". Beh, effettivamente in Italia ci sono 120.000 distributori. E quello che vedete rappresentato in questa slide sta a indicare come sono tutto sommato suddivisi questi 120.000 distributori. Circa 118.000 sono persone che fanno questa attività part time e traggono un beneficio economico dai 300 ai 1.500 euro al mese attraverso soltanto la distribuzione diretta. Ma questa presentazione è riservata a quelle persone che vogliono far parte del numero, diciamo, se vogliamo, più ristretto dei distributori indipendenti Herbalife, che invece traggono rendite mensili grazie alla creazione di una rete di distribuzione. Il primo argomento che vogliamo trattare è l'industria del benessere. Un famoso economista di fama mondiale, già consulente economico della Casa Bianca, Paul Zeinpilzer, ha definito l'industria del benessere come la futura industria a miliardi di dollari, che al momento è ancora sconosciuta, come lo era l'industria automobilistica nel 1908 o quella del personal computer nel 1981. È ormai opinione diffusa che l'industria del benessere sia nei prossimi anni il settore di mercato che realizzerà la più grande crescita a livello mondiale. Entro il 2010, soltanto in Europa, questo mercato raddoppierà letteralmente, passando dagli attuali 500 miliardi di euro ai 1000 miliardi di euro. Paul Zeinpilzer su questo, come potete vedere, ha scritto almeno 3 libri dove appunto dichiara come il settore dell'industria del benessere sia per i prossimi 20-25 anni il settore che registrerà le maggiori crescite. Ma è anche sufficiente fare una ricerca su Google, digitando industria del benessere, che subito appaiono una serie di articoli. Quello che avete qua è tratto al CorrieredellaSera.it, dove si conferma quanto detto da Paul Zeinpilzer ed altri economisti. E anche in Italia, in tempi di crisi, il settore del benessere cresce di oltre il 15%. Viene così definito il business del terzo millennio. Quando parliamo di industria del benessere, ovviamente parliamo di una serie di attività che vanno dagli istituti di bellezza, all'agriturismo con centro benessere, alle spa, agli stabilimenti balneari con area benessere, e tutte queste attività costituiscono l'industria del benessere e, appunto, come ho già detto, anche negli ultimi anni il fatturato è in continua crescita. Tant'è vero che la tendenza è in atto, ce ne possiamo rendere conto facilmente, semplicemente applicando un po' di attenzione a quello che ci sta intorno. Basta vedere le palestre come si sono trasformate negli ultimi anni, dalla vendita, l'incremento dei prodotti biologici, da ormai ogni riviste, giornali, riviste di settore, ma praticamente in tutta la stampa si parla sempre di benessere, di come star bene, alle beauty farm, a servizi radio televisivi, e si parla sempre di più di integratori. Tutto ciò parla di benessere fisico. Concentrandosi un attimo sugli integratori, ormai li troviamo ovunque. Basta entrare in qualunque farmacia, nei supermercati, e troviamo scaffali veramente pieni di integratori. Se ci riflettiamo un attimo, basta pensare che soltanto 10 anni fa tutto ciò era praticamente impensabile e gli integratori erano quasi perché gli integratori di industria del benessere sono diventati così importanti? Beh, perché è diventato assolutamente necessario distinguere tra alimentazione, che potremmo dire tutto ciò che mangiamo, da nutrizione, quello che arriva alle nostre cellule. In pratica, noi siamo quello che mangiamo. Come vedete, anche il Time gli aveva dedicato proprio su questo argomento una copertina. Perché la corretta nutrizione è così importante? Beh, qui l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che il 70% dei decessi dipende da 3 fattori: problemi cardiovascolari, cancro, diabete. Il 50% di questi decessi è legato alla cattiva alimentazione. In pratica, 35 persone su 100 potrebbero avere una vita più lunga e più sana se avessero una corretta nutrizione. Non solo, anche il Ministero della Salute, ormai in un rapporto Istat di 4 anni fa, ha dichiarato che il 70% di tutte le malattie può essere attribuito a una cattiva alimentazione. In pratica, 7 volte su 10 che andiamo dal nostro medico o lo consultiamo, lo facciamo per qualche problematica legata alla cattiva alimentazione. Il mercato è intorno a noi. Chi non conosce qualcuno che soffre di mal di testa, di stitichezza, bruciore di stomaco, gastrite, colesterolo, diabete, problemi di circolazione, pressione alta? Sono normalmente tutti sintomi che rientrano in quel 70% di malattie appunto derivanti dalla cattiva alimentazione. Perché accade tutto ciò? Perché oggi è così importante stabilire una differenza sostanziale tra alimentazione e nutrizione? Qui c'è una tabella molto esemplificativa che fa capire come sono cambiati i valori nutritivi dei nostri cibi. Tanto per fare un solo esempio, viene presa una mela nel 1985 e conteneva 100 mg di vitamina C. C'era anche il famoso detto, una mela al giorno leva il medico di torno, proprio perché assicurava quell'apporto di vitamina C di cui il nostro organismo ha bisogno, e quindi sappiamo tutti quanti che la vitamina C va a fortificare il nostro sistema immunitario. Beh, 11 anni dopo, nel 1996, per poter avere la stessa quantità di vitamina C era necessario mangiare 5 mele, e pensate che oggi ne servono 10. Che significa questo? Significa che i cibi non nutrono più come una volta. Qui ci sono alcuni, in questa slide potete vedere un articolo sul Messaggero, uscito ormai anche questo 5 anni fa, dove nutrizionisti e dietologi dichiarano che la frutta, verdura e cereali hanno perso il 50% delle proprietà nutritive. E tutto ciò ovviamente va a impattare sulla nostra salute. Addirittura, anche questo è un altro articolo sulla Repubblica, vi avevo detto prima che tutto intorno a noi parla di benessere, la cattiva alimentazione, stress, inquinamento, gli integratori sembrano il solo modo di sopperire alle carenze organiche. Addirittura si dice che neanche una dieta equilibrata riesce a garantire il fabbisogno, perché in cottura i cibi perdono moltissimo e gli italiani sono diventati ormai dei grandi consumatori dei complessi polivitaminici. E qui c'è un collage di articoli, di titoli di articoli, dove appunto si parla di quanto è importante la buona nutrizione, la cura dell'influenza che comincia a tavola, gli integratori giusti, ok, insomma, quindi tutto ciò serve a soltanto evidenziare del valore, dell'importanza che hanno gli integratori all'interno dell'industria del benessere, che è l'industria che registrerà la maggior crescita nei prossimi 20-25 anni. Quindi, parlando di integrazione, non parliamo di qualcosa che va a curare, ma parliamo di qualcosa che aiuta a prevenire, quindi il mercato è totalmente orientato alla prevenzione. Questo è un grafico dove si rappresenta il mercato degli integratori della fonte Nielsen, dove si evidenzia come un'ulteriore conferma della crescita di questo mercato, ma in particolar modo, che poi è più attinente a questa opportunità di cui parliamo oggi, la vendita diretta degli integratori registra una crescita quasi 3 volte superiore a quella che si registra nelle farmacie. Perché il settore del benessere e dell'integrazione sono in forte crescita? Beh, la conclusione è abbastanza semplice, perché è una crescita che si basa su esigenze reali di tutte le persone, che va a toccare quindi l'aspetto più importante della nostra vita, che è la salute. E siamo soltanto all'inizio. Paulsen Pilzer appunto dichiara che ancora questo mercato è sconosciuto. A questo punto c'è una piccola provocazione, una domanda: se nel 1985 una persona che veniva dal futuro gli avesse parlato di quello che sarebbe successo al nascente mercato dei computer, con tutto quello che abbiamo, con tutto quello che il mondo dei computer e l'informatica ha fatto dal 1985 in poi, voi avreste colto l'opportunità? Beh, la risposta credo sia sicuramente positiva. Ecco, oggi ci troviamo di fronte allo stesso momento per quanto riguarda il mercato del benessere. Quindi, come possiamo entrare nel mercato del benessere? Come possiamo cogliere l'opportunità di business di questo terzo millennio? Beh, normalmente tutti quanti conosciamo le varie forme di distribuzione, da quella, chiamiamola tradizionale, dove c'è un produttore, centri di distribuzione regionali, ingrosso, negozi, alle vendite sul catalogo per corrispondenza, internet che ovviamente ha creato una rivoluzione anche nel mondo della distribuzione, la distribuzione diretta e il franchising. Ecco, sul franchising forse non ce ne rendiamo conto, ma siamo noi avvolti da reti di franchising. Qui potete vedere un piccolo esempio di marchi che distribuiscono i propri prodotti attraverso reti di franchising, dall'abbigliamento, alla telefonia, ai ristoranti, alle macchine, alle auto, alle scarpe. Beh, il franchising ha sicuramente permesso a molte persone di intraprendere un'attività imprenditoriale perché ne ha un po' abbassato la soglia di ingresso e in più fornendo dei vantaggi: supporto marketing della casa madre, utilizzo del marchio esclusivo nella zona e il supporto logistico della casa madre. Però il franchising ha anche comunque dei vincoli, perché è vero che ha abbassato la soglia di ingresso per poter permettere a persone di iniziare un'attività imprenditoriale, ma comunque ne sono necessarie a disposizione di capitali. Normalmente l'investimento iniziale è sempre fatto da decine e decine di migliaia di euro. Poi l'attività non è totalmente indipendente, perché comunque è vincolata dalle politiche della casa madre. Ci sono delle quote associative da pagare annualmente o royalty alla casa madre rispetto al fatturato che di solito è, diciamo, imposto dalla casa madre, e il raggiungimento di questi fatturati servono anche a mantenere la zona. Ci sono limiti commerciali della zona, perché non si possono aprire dei punti vendita di un marchio che ha la distribuzione di rete col franchising dove vogliamo, e in più comunque, se tutti questi vincoli o impegni non dovessero essere rispettati, c'è anche il rischio di perdere la licenza. L'evoluzione del franchising: beh, c'è un sistema di mercato, sistema di distribuzione che rappresenta l'evoluzione del franchising. Sostanzialmente ne riprende tutti i vantaggi, ma riduce drasticamente i vincoli. Questo sistema di distribuzione è nato nel 1934 negli Stati Uniti e oggi rappresenta un sistema di vendita innovativo per il nostro sistema economico ed imprenditoriale. È il multilevel marketing, o detto anche network marketing. Vediamo perché rappresenta questa evoluzione. Perché ha i vantaggi del franchising, cioè il supporto logistico aziendale, il supporto marketing e il marketing esclusiva, ma il multilevel marketing non ha limiti di zona, quindi permette di operare ovunque lo si voglia, non richiede nessun investimento obbligatorio, quindi qui le barriere di ingresso sono veramente totalmente azzerate, non richiede nessun fatturato non obbligatorio, ciò sta a significare che l'attività è veramente libera e indipendente. Sostanzialmente non ci sono rischi di impresa, offre l'opportunità di offrire, scusate il gioco di parole, la stessa opportunità ad altri e quindi iniziarsi a creare una propria rete. E l'attività è di proprietà irrevocabile e soprattutto ereditabile. Vediamo schematicamente quali potrebbero essere i pro e contro tra franchising e network. Network ovviamente si intende network marketing. Abbiamo detto che il franchising richiede alti investimenti iniziali, il network marketing no. Il mantenimento dei fatturati è un requisito richiesto a chi lavora col franchising, nel network marketing no. Normalmente ci sono delle elevate spese di gestione, dagli affitti ai mutui, alla luce e quant'altro, nel network marketing no. Di solito c'è necessità di avere anche dei dipendenti, nel network marketing no. Nel franchising i guadagni sono derivanti unicamente dalla distribuzione diretta. Nel network marketing si può costruire una rendita derivante dalla propria rete a più livelli. In pratica, Il multilevel dà la possibilità di crearsi la propria rete di distribuzione iniziando da zero. In sostanza offre la possibilità di crearsi il proprio franchise. Quando parliamo di multilevel però, è inutile nasconderlo, ci sono anche dei pregiudizi. Perché spesso il multilevel viene confuso, direi per ignoranza, cioè perché non si sanno le cose fino in fondo, con quei sistemi truffa cosiddetti piramidali o catene Sant'Antonio. Beh, la differenza tra le due cose è veramente sostanziale. Intanto il multilevel marketing è totalmente legale, riconosciuto, legalizzato, regolato da delle norme e delle leggi in ogni stato in cui questo sistema di mercato è presente, mentre le piramidi o catene Sant'Antonio sono degli strumenti totalmente illegali. Ma la principale differenza è che nel multilevel marketing lo scopo principale e finale è quello di avvicinare il produttore al consumatore finale, mentre i sistemi piramidali tendono invece semplicemente a moltiplicare i livelli di vendita, spesso senza nemmeno alcuna distribuzione di prodotti. Ed è da qui che poi c'è l'inganno. Come vi dicevo, il multilevel marketing è regolato da delle norme e leggi nazionali, anche il Parlamento, anche in Italia ovviamente se ne è occupato. Questo è un pezzo della proposta di legge fatta che poi è diventata legge, dove si parla appunto della vendita diretta e del sistema del multilevel marketing. È stata fatta poi una conferenza stampa con il ministro Maroni, con alcune aziende che lavorano a distribuzione diretta, tra cui c'era ovviamente Herbalife. E oltretutto l'azienda Herbalife è anche associata a Avedisco. Avedisco è un'associazione che va a tutela delle aziende associate, degli incaricati, cioè delle persone che lavorano per queste imprese, e dei consumatori. Tutto quello che io vi dico in questa presentazione è totalmente riscontrabile e per quanto riguarda ad esempio Avedisco basta andare a vedere sul sito www.avedisco.it. Quando parliamo di network marketing o multilevel marketing che viene addirittura insegnato in università, anche alla Bocconi si è tenuto un seminario e ormai ci sono nelle facoltà di economia e commercio delle sessioni di esami proprio su questo sistema di distribuzione. Si trova anche molta letteratura sull'argomento, libri come quello che vedete qui di John Kalencher, come raggiungere la vostra forma migliore nel multilevel. Così come anche un famoso formatore del wellness finanziario, Alfio Bardolla, nel suo bestseller I soldi fanno la felicità, dichiara che il network marketing è uno dei sistemi più interessanti e più semplici dal suo punto di vista per decidere di diventare imprenditore. Crede che il network marketing, tra l'altro, sia un'industria destinata a crescere ulteriormente perché dà la libertà di gestire il proprio tempo. Quindi il multilevel marketing è un'opportunità per intraprendere un'attività in proprio, libera, senza capi, senza investimenti, gestendo il proprio tempo, che si basa sul principio della duplicabilità, con la possibilità di creare una rete di vendita esponenziale e quindi trarne anche dei guadagni impensabili normalmente se se lo vogliamo paragonare con le normali attività. Pertanto potremmo definire un'equazione esplosiva: il mercato del benessere, che rappresenta l'opportunità e il mercato in maggior crescita del terzo millennio, con un sistema di distribuzione e multilevel marketing che offre quei vantaggi che abbiamo visto brevemente prima, tutto ciò diventa un'opportunità di business. Ma la domanda è: con quale azienda io posso avere questi due punti fondamentali, cardini per sfruttare l'opportunità di business, quindi il mercato del benessere e multilevel marketing? Beh, l'azienda è Herbalife, è l'azienda leader nel mondo nella produzione e vendita di integratori alimentari. Andiamo a conoscerla un po' meglio. Herbalife è sul mercato da 29 anni, oggi è una multinazionale presente in 70 paesi del mondo, in Italia è presente dal 1993 con Herbalife S.p.A. e due sedi, una a Roma ed una a Milano. Herbalife è stata fondata nel 1980 a Los Angeles da questo signore che vedete qui nella foto, Mark Hughes, che poi fu nominato da Bill Clinton nel 1995 Man of the Year. Oggi invece è guidata dal 2003 da Michael Johnson, ex presidente della Walt Disney. Quello che vedete qui sulla destra è la notizia, una pubblicazione di una notizia quando fu nominato nel 2000 Michael Johnson presidente della Walt Disney International. In realtà poi ha lavorato per 17 anni in Walt Disney ed ha terminato la sua carriera appunto come presidente. Mark Hughes 30 anni fa ha avuto intuizione commerciale di capire le future necessità del mercato a livello nutrizionale e in più ha avuto l'intuizione di adottare il sistema di distribuzione, il metodo commerciale del multilevel marketing. A Michael Johnson invece si deve l'intuizione commerciale di aver capito la necessità di traghettare Herbalife verso un business molto più grande di quello della perdita di peso che dicevo all'inizio nel 93 quando è arrivata in Italia, appunto più o meno tutti abbiamo incontrato forse una volta qualcuno con quella spilla con la scritta vuoi perdere peso chiedimi come. Michael Johnson ha capito e ha avuto l'intuizione che c'era un mercato molto ancora più vasto e con molte più esigenze da soddisfare, che era quella dell'integrazione, integrazione sportiva e integrazione totale. Tra l'altro Michael Johnson è stato nominato CEO dell'anno negli Stati Uniti nel 2005 e fa piacere vedere che si contendeva questo premio con altrettanti importanti amministratori legati americani come Steven Jobs della Apple Computer o Steven Ballmer della Microsoft o Jeffrey Immelt della General Electric, insomma pezzi da 90. Herbalife è presente, come dicevo, in 70 paesi del mondo con oltre 60 milioni di clienti e questi sono i dati di crescita del fatturato. Vorrei soltanto mettere l'attenzione sul rapporto fatturato tempo. Cosa voglio dire? Che dal 1980 ha impiegato 16 anni per arrivare ad avere un fatturato di $1 miliardo all'anno, mentre nei successivi 8 anni, quindi in metà tempo, ha raddoppiato il fatturato e ancora nei successivi 4 anni, quindi riducendo ancora dalla metà il tempo, ha ulteriormente raddoppiato i fatturati. Beh, questo grafico, questo trend di crescita non è altro che la conferma anche di quanto dicevamo prima, di come il mercato degli integratori stia crescendo in modo esponenziale e siamo ancora... Quali sono i fattori che concorrono al successo? Ovviamente il mercato del benessere, il sistema di distribuzione, il multilevel marketing o network marketing, i prodotti che chiaramente sono alla base di questo successo, e poi potremo aggiungere anche le nuove necessità economiche degli italiani. I prodotti. Beh, i prodotti sono garantiti, danno risultati, sono di consumo, particolare e assolutamente importante, e vengono usati per sempre. E potremmo anche dire garantiti. Beh, garantiti sta a significare che ci sono 70 autorizzazioni ministeriali che hanno sul prodotto Herbalife. Anche il Ministero della Salute ovviamente ha dato l'autorizzazione alla distribuzione al commercio in Italia, non hanno controindicazioni, non ci sono problemi di megadosaggio e tra l'altro sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni dopo l'utilizzo. Herbalife è anche associata a Federsalus, anche la Federsalus è un'altra associazione importante italiana, che proprio ha lo scopo quello di offrire la massima tutela e assistenza ai consumatori e alle aziende operanti nel settore, a partire dalla qualità dei prodotti sino alla divulgazione delle informazioni. Perché i prodotti parlano? Perché sono semplicemente eccellenti. E l'eccellenza non viene per caso, ma arriva dalle risorse che l'azienda ha per investire in ricerca e materie prime. L'azienda non investe soldi in pubblicità convenzionale, ma le investe appunto in materie prime. Normalmente tutte le imprese ai costi di produzione aggiungono dei costi di pubblicità che vanno a pesare circa un 25-30%. Poi il sistema di distribuzione classico, quello tradizionale, che abbiamo visto anche prima, va dall'importatore al grossista, agli agenti di commercio, fino ad arrivare al negoziante che poi vende il prodotto al cliente finale, non fanno altro che ovviamente incrementare il prezzo del prodotto. Con il multilevel marketing che adotta Herbalife, sostanzialmente Herbalife si trattiene il 27% del costo, del valore del prodotto per la produzione delle materie prime di alta qualità, mentre il 33% è tutto raggruppato nella figura del distributore Herbalife. In sostanza un prodotto dal produttore per arrivare al consumatore fa tutta una serie di passaggi che vanno a incrementare i costi e bisogna chiaramente metterci anche i costi derivanti dalla pubblicità, da come rendere noto questo prodotto. Per quanto riguarda Herbalife, i costi legati alla pubblicità vanno tutti in ricerca in materie. Ecco dove investe l'azienda Herbalife. Il presidente del comitato scientifico, dottor David Iber. Dottor David Iber, potete vederlo anche sul sito uclahealth.org o semplicemente digitando David Iber su Google, è considerato tra i primi 5 nutrizionisti a livello mondiale, è il direttore del centro di nutrizione umana presso la UCLA ed è anche colui che eroga e assegna tutte le borse di studio ai nuovi scienziati nel campo della nutrizione. Quindi veramente un personaggio fondamentale e importante nel mondo della integrazione e della nutrizione. Non solo, presso la UCLA, caso più unico forse che raro, che un'azienda privata, Herbalife, ha un laboratorio di ricerca di nutrizione cellulare e molecolare intestato al fondatore Mark Hughes, di cui ovviamente David Iber è il presidente. Altro fiore all'occhiello dello staff scientifico di Herbalife è il dottor Luis Ignarro. Anche qui potete andare a vedere sul sito drignarro.com ed è un premio Nobel della medicina. Gli è stato conferito il premio Nobel della medicina nel 1998 grazie alle scoperte sulla funzione dell'ossido nitrico nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. È fondatore e presidente della Nitric Oxide Society ed è un docente di farmacologia e lui è responsabile per la ricerca e lo sviluppo dei prodotti Herbalife. Il fatto che un premio Nobel sia andato a lavorare con un'azienda di integratori alimentari e non magari con una casa farmaceutica non è una cosa così comune, tant'è vero che il Washington Post ha intervistato Ignarro e gli ha praticamente chiesto come mai è avvenuto questa cosa, che un premio Nobel sia andato a lavorare per un'azienda di integratori. E Ignarro, qui potete trovare le risposte, ma soprattutto ha preferito lavorare con Herbalife perché non ha individuato in Herbalife l'azienda giusta e nel multilevel marketing il metodo di distribuzione giusto che consente di poter raggiungere 100 milioni di persone. Tant'è vero che Herbalife ha in esclusiva per i prossimi 20 anni un prodotto che si chiama Nightworks, che è il risultato della scoperta per cui Ignarro ha preso il premio Nobel. Ha scritto libri, dire no alla malattia cardiache, no è anche la formula chimica dell'ossido nitrico, e in più ultimamente, nello scorso ottobre, ha preso anche la Norris Causa in chimica presso l'Università. Non solo, Ignarro viene definito il papà del Viagra, perché l'ossido nitrico è considerato come il principale neurotrasmettitore implicato nell'insorgenza dell'erezione. Tanto per fare un piccolo esempio su come la ricerca sia importante in Herbalife, questo è un vecchio articolo del Resto del Carlino del 10 marzo 1999 dove si diceva che degli scienziati emiliani avevano scoperto che il farmaco di pesce guariva l'infarto sostanzialmente. In pratica la scoperta era quella che gli acidi grassi poliinsaturi EPA e DHA, che appunto si traggono dai pesci, sono utili alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Bene, Herbalife aveva dal 1988, quindi 11 anni prima negli Stati Uniti, un prodotto, e dal 1996 in Italia, quindi 3 anni prima, un prodotto che contenente acidi grassi poliinsaturi omega 3, ed è l'Herbalife Line, eccolo qua. Ci sono anche forme pubblicitarie che fanno conoscere il brand, il marchio Herbalife, però queste sono finanziate da distributori indipendenti di vari paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti, il Los Angeles Galaxy è stato sponsorizzato da Herbalife, in particolar modo perché Herbalife ha sponsorizzato Beckham, che è un fenomeno mediatico di cui è inutile aggiungere delle parole. Pensate soltanto che ad esempio a Londra, al Museo delle Cere, c'è la statua di David Beckham con la maglia con la scritta Herbalife. Non solo, ma PlayStation, con il gioco del calcio, si trovano ormai il marchio Herbalife ben visibile. Nelle ultime Olimpiadi di Pechino il brand, il marchio Herbalife, è stato visto tantissime volte per chi ha posto l'attenzione, perché molti atleti erano sponsorizzati da Herbalife, dagli distributori indipendenti. In Italia i 120.000 distributori italiani stanno sponsorizzando ormai le campionesse italiane beach volley, Galtelli e Perrotta da diversi anni. Abbiamo Manuel Poggiali, campione del mondo moto 250 e 125, che tra l'altro fa parte dell'organizzazione Herbalife. Mauro Nespoli, medaglia d'argento a Pechino, tiro con l'arco. E in più, tanta pubblicità arriva gratuitamente. Ad esempio, quello che qui vedete è una rivista di gossip spagnola, dove viene preso Rafael Nadal, tennista numero uno al mondo. Ma la cosa interessante, per chi lavora con Herbalife, è quello che vedete in fondo a sinistra, che praticamente testimonia il fatto che il tennista numero uno al mondo usi i prodotti Herbalife. C'è altra pubblicità passiva, quindi tutto quello che serve a far conoscere il brand Herbalife. Grazie a un accordo con la Barclay c'è la carta di credito Herbalife. L'ultima maratona nel novembre 2008 di Milano è stata sponsorizzata da Herbalife, e quindi l'evento è stato trasmesso in diretta TV su Rai 3, poi la stampa ne ha dato molto risalto, e ovunque si trovava il marchio e il logo Herbalife. E in più, e diciamo per finire, la sponsorizzazione, la pubblicità forse più visibile, più mediatica che oggi ci sia, è quella dell'Inter. Herbalife è sponsor nutrizionale dell'Inter, e ogni volta che gioca in casa vediamo il logo, i striscioni ovunque. Questo ovviamente dà una grandissima visibilità al marchio Herbalife in Italia. In più, ogni volta che si radunano i distributori italiani Herbalife per delle convention, il fenomeno non passa mai inosservato, e quindi i giornali ne parlano, e anche questa è tutta pubblicità passiva. Ecco, dicevamo che ci sono anche nuove necessità economiche italiane che determinano questo momento ancora più interessante, se dovesse essere necessario, per poter intraprendere questa opportunità di business. Perché, ahimè, ormai ne parliamo da tantissimo tempo, anche l'Orispes, che è un istituto di studi politici, economici e sociali, dichiara che c'è un rischio di povertà incombente, che ormai la famosa terza, quarta settimana diventa sempre più difficile per molte famiglie, che sostanzialmente l'Italia viene divisa tra super garantiti, poveri e rischio povertà, e quindi questo stimola le persone a ricercare anche delle opportunità extra per integrare i propri stipendi. Ma non solo, anche gli italiani, però, a cui le loro attività vanno bene, alla domanda quanto stanno accumulando per crearsi una rendita futura, la risposta è stata che l'86% di loro ormai non risparmia più, e quindi non avrà una rendita in futuro. Anche questo è un dato tratto dall'Eurispes nel 2008. Pertanto, chi è distributore indipendente Herbalife? È un'entità commerciale indipendente che porta sul mercato i prodotti Herbalife da solo e o aiutato da una rete di distribuzione, sulla quale avrà dei diritti a vita ed eredità. Quindi l'opportunità sostanzialmente la potremmo classificare per due tipologie di persone. A, per chi è interessato a fare un'attività, prevalentemente un'attività di distribuzione diretta, da cui trarre quindi un'entrata extra mensile. E l'opportunità B, che è lo scopo di questa presentazione, per quelle persone che vogliono invece proprio intraprendere un business in modo da crearsi una rendita futura e ereditabile. Crearsi un'entrata extra è come aprire un negozio sostanzialmente, ovviamente senza gli impegni economici di tempo che il negozio comporta, però il guadagno arriva soltanto dalla propria produzione. Costruire una rete di distribuzione invece significa crearsi una rendita, cioè ricevere dei diritti su decine di negozi. Sostanzialmente questo è uno schema ipotetico di come si potrebbe costruire la propria rete di distribuzione, proprio grazie a uno di quei vantaggi che abbiamo visto un po' di slide, alcune slide precedenti, vantaggi che ha il multilevel, che è quello di offrire l'opportunità ad altre persone, quindi sostanzialmente di poter aprire negozi ovunque vogliamo senza nessun limite di zona. Su tutti questi negozi si avranno dei diritti a vita. Oppure, chiaramente, tutto ciò può ingrandirsi a dismisura, non c'è un limite fisiologico, e quindi potrebbe essere anche su centinaia di negozi e produrre una cosa del genere, con quello che, ovviamente, con guadagni che tipicamente sono impensabili in un mondo del business o del commercio, della distribuzione tradizionale. Sostanzialmente il multilevel marketing lo potremmo sintetizzare in una famosa frase che disse John Paul Getty, un multimilionario americano, che disse: preferisco guadagnare l'1% sulla produzione di 100 persone piuttosto che il 100% sulla produzione di me stesso. E questa è la chiave di questa grande opportunità. Quindi qual è l'equazione esplosiva? Mercato del benessere, opportunità del terzo millennio. Nei prossimi 20-25 anni sarà il settore che registrerà la maggior crescita. Come faccio ad entrare in questo mercato? Attraverso un sistema di multilevel marketing con l'azienda oggi leader nel settore. Da qui nasce l'opportunità di business. Bene, la presentazione termina qui. Per chi volesse avere un quadro più ampio e porre delle domande, approfondire l'argomento per capire cosa serve per poter iniziare a intraprendere questa attività, quelle che vedete qua sono i miei riferimenti, i miei contatti, mi potete chiamare oppure scrivere sulla mia casella di posta elettronica e io senz'altro vi contatterò e stabiliremo un appuntamento per fare un colloquio. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro a tutti quanti una buona giornata.